La luce buona delle stelle lascia sognare tutti noi. Certi sogni son come le stelle, irraggiungibili però. Quanto è bello alzare gli occhi e vedere che son sempre là. È cresciuto, sai, quel ragazzo che buona delle stelle.